Il punto di Stefano Folli. Angela Merkel, nel giorno della memoria, ha parlato di colpa perenne della Germania. Parole degne di un grande paese che vuole pesare il passato per guardare al futuro. Nello stesso giorno, lo abbiamo visto ieri, Berlusconi elargiva con leggerezza e parecchio cinismo quei suoi giudizi sul fascismo e le leggi razziali. Alfano ieri sera ha negato qualsiasi conseguenza sul rapporto fra il PDL e il Partito Popolare Europeo. Ma siamo proprio sicuri che sia così? Il tema del fascismo è drammaticamente sentito in Germania per ovvie ragioni ed esiste già il problema del partito ungherese del Premier Orban intriso di autoritarismo. Nonostante le smentite di Alfano, l'impressione è che qualcosa possa cambiare nel rapporto fra i popolari europei molto influenzati dalla Merkel e dalla Germania e l'italiano Berlusconi.